la situazione purtroppo, come da previsioni, essendo aggravata ancora di più le condizioni del maltempo, avendo già un pregresso importante, è molto seria nel senso che ci sono tantissime strade comunali, statali e tante strade della città metropolitana chiuse con ponti anche caduti, quindi tutto può essere seguito, aggiornato, in particolare per quello che riguarda la città metropolitana, sul sito della città metropolitana. Quindi prima di mettersi in viaggio è sempre bene guardare cosa si può raggiungere e solo farlo per estrema necessità, perché diversamente il consiglio è quello di stare a casa salvo situazioni di emergenza o di necessità. Ci sono zone più esposte di altre? Sì, oggi le zone più esposte sono le zone di montagne, la zona dei comuni ad est di Bologna, quindi Budrio, Mulinella, Medicina, San Lazzaro, Pianoro, oltre ai comuni che vi dicevo già montani, ma comunque anche Bologna comincia a avere sto vedendo importanti richieste. Certo, ecco, c'è il rischio comunque di esondazione di torrenti di fiumi che passano da questi territori? Da questi territori, diciamo, se intendiamo città metropolitana, sì, stanno già esondando. Idice sta avendo in questo momento effettivamente è uscito da Argini, anche in altre posizioni, e abbiamo corsi d'acqua monitorati come possono essere il Navile e in altri punti di collina, però diciamo la situazione soprattutto nelle zone collinari, come dicevo, est del nostro territorio, è particolarmente grave.